Cos'è successo? Gli ha dato un calcetto? Ha allungato il piede? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Lui preferisce che vinca Lorenzo e per prima cosa perché è arrabbiato con me. Secondo me è una questione proprio personale. Io sempre il rispetto a Valentino c'è e il rispetto rimane, perché alla fine è il più grande della storia del motociclismo. Rischiano lungo di nuovo tutti e due, dovrebbe esserci un varco, però se all'interno della traiettoria di Marquez la loro bagarre in qualche modo agevola la fuga di quelli davanti, ma Rossi non ha nessuna intenzione di molare, di nuovo dentro la frana della curva 9, prova Rossi col piedino di salvataggio per terra, si volta, vede Marquez dall'altra parte, lo vede davanti a sé. I due si trovano, cosa stanno facendo? A un millimetro, cosa stanno? Caduta di Marquez, ha rallentato Valentino. Beh, Valentino questo... si è trovato Marquez vicino. È stata strana, Valentino ha aspettato Marquez, ha allargato la traiettoria e si sono toccati, non ci voleva questo. Ha rallentato tanto, mi ha guardato e quando mi ha visto là vicino mi ha dato un calcio e è andato a terra. Non so, io penso che quel contatto era innecessario, la verità è che non ho visto i sorpassi di prima, di loro due, però la verità è che quello che l'ho visto una volta, penso che per Valentino non era necessario levantare la moto e buttare fuori a Marquez e anche fare così con la gamba. È una sensazione pesante che a me mi taglia le gambe quasi definitivamente, ecco. Potevo stare anche zitto, però sai, secondo me non è neanche giusto prenderla nel culo e star zitti, ecco. Oggi non si parla d'altro, eh? Calcio arriva dopo per questa giornata. 800 24 00 24 per intervenire con i vostri telefoni. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchioni in redazione, edicole, piazze, bar, macchinette del caffè, degli uffici, poste, banche, aziende, semafori. Ovunque oggi in Italia non si parla d'altro che di un contatto rabbioso e violento su una pista maledetta, perché tale è, e non Tana, Sepang, Malesia. Roberto Ungaro, ex pilota, o meglio pilota, perché quando sei pilota lo resti, lo rimani. Ciao Carlo, sì, ciao. Lo resti tutta la vita, hai ragione, tutta la così vita. Non c'è niente da fare. Tante edizioni di Moto Mondiale commentate con Marco Lucchinelli, oggi direttore di Riders. Allora, ieri mi hai suggerito, diciamolo pubblicamente, via WhatsApp, una lettura che ho subito proposto ad Agostini. Agostini ha detto, è stato così, allungando il piede, Valentino Rossi ha sfiorato il pedale del freno posteriore di Marquez. Allora, no, il freno anteriore. Sì, il freno anteriore. Il contatto con il freno anteriore, perché con quella piega, con quell'angolo sei così. Poi Marquez stesso, e lì sarebbe bastata leggere la telemetria, si vede se c'è un picco di bar sono le unità di misura che misurano la pressione dell'impianto idraulico, e quindi si vede se c'è stato. Però poi Marco ha detto, mi ha preso dentro il braccio, quindi mi ha chiuso lo sterzo e ho frenato ed è caduto, comunque è caduto per quel contatto col piede. A me quello che dispiace è che questo gesto non è stato neanche citato in telecronaca, non viene fuori, e uno spettatore che ne sa se ne accorge. Questo, quindi i primi a perdere, secondo me, ieri abbiamo perso un po' tutti, e i primi sono stati i telespettatori con quel tipo di telecronaca. Poi tornerò su questo fatto, non voglio essere pesante, però è veramente quello che penso da spettatore. Certo. E il piede c'è stato, cioè tanti hanno detto allargato il ginocchio. No, Valentino non ha allargato il ginocchio tenendo il piede sulla pedana, che è un gesto istintivo, lo fai distinto quando la moto è molto vicina all'altra. Quindi per evitare carena contro carena la allarghi col ginocchio, è una spinta laterale, si fa, è una cosa, è prassi in carena, si dice, si danno le sportellate. Sì. No? Mentre lui invece ha alzato il piede, la pianta del piede dalla pedana, e l'ha portata dall'interno all'esterno, quindi ha scalciato, ha dato il calcio, lì non è istinto, lì è intenzione, cioè il gesto è intenzionale, e allora entriamo nello sporco, nell'antisportivo, questo è il fatto grave, e si è visto, perché nelle inquadrature si percepisce, non gli scappa il piede dalla pedana, come è successo precedentemente in inquadratura, si vede quando scappa il piede dalla pedana perché l'appoggio manca, tutto il corpo ha, certo, uno scuotimento, lì no, c'è proprio il piedino, tac, chiamiamola così, la bastardata data apposta per senza considerare il fatto che l'aveva portato fuori dalla curva. È vero che l'aveva esasperato. Quindi, facendo una sintesi, Valentino è caduto nella trappola che lui stesso ha escogitato il giovedì in conferenza. Guarda che quella è l'uscita che ha avuto, ha spezzato tutti, nessuno se l'aspettava, perché quella lettura in realtà non c'era stata da parte di nessuno, cioè lui l'ha messa sul piatto perché probabilmente sentiva per mettere le mani avanti, forse, no, Roberto? Sì, mettere le mani avanti perché era sotto pressione, quindi ha detto ok, io gioco questo, perché diciamocelo, dei quattro che sono pretendenti al titolo quest'anno lui è il più lento, ma ne è consapevole, lo sa, solo che alla fine, fatto tutto, lui è quello che ha più testa, ragiona più, l'abbiamo detto, poi al momento giusto comunque tira fuori il jolly giusto, però alla fine dei quattro è il più lento. Non è detto che non si meriti il titolo, anzi se lo merita guardando la gestione totale, però bisogna essere onesti e dire che ieri il gesto c'è stato, gli si è chiusa la vena, come si dice in gergo, ha sbottato, cioè anche lui è umano, quindi non la trappola, però quella pressione psicologica che aveva preparato ha ricevuto una risposta che non pensava da parte di Marquez, pan per focaccia, e c'è caduto dentro lui in questa tela. Certo, anche Marquez non ci ha fatto una gran figura, eh? Anzi, no, Marquez ha sbagliato. Ti posso leggere, l'avrei detto anche tu oggi sul Corriere della Sera, cosa scrive Giorgio Terruzzi, un estratto. Marquez, il baby fenomeno, è apparso come un deliberato vendicatore, voleva fare a botte, voleva infierire su Rossi, ancora tra i piedi, capace di escluderlo da una scena fatta apposta per lui. Ha raggiunto il suo scopo, ma non ne esce bene. Ne esce per molti versi come l'anima più nera emersa in un giorno nerissimo, e alla fine così la reazione di Valentino diventa, se non un altro più comprensibile, mostra il verso di un'umanità schietta. Nei suoi panni possiamo ritrovarci in tanti, nei panni di Marquez faremmo più fatica, si spera, ad entrarci. Sentiamo il traffico e poi continuiamo a parlarne. Il mio non è stato un fallo di reazione, nel senso che sono arrivato lì e gli volevo dare un calcio, ecco, volevo rallentarlo, mandarlo fuori traiettoria. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta convocati. Può essere un colpo di nervosismo, ma alla fine stiamo giocando la vita là fuori. Spero che questo episodio finisce qua, ma non penso che sarà così. Questo che è successo oggi sicuramente marca a me e a tanta gente. Sì, la battaglia violenta l'ha innescata proprio Marc Marquez, a cominciare dall'aprire la porta a Lorenzo in maniera deliberata, in maniera fin troppo sfacciata, un giro prima di cominciare questa crudele e incomprensibile battaglia. Per completare il quadro a Roberto Ungaro, agli ascoltatori, a tutti voi, quanto ha scritto la direzione di gara: Valentino ha tenuto una condotta irresponsabile causando pericolo ad un altro pilota. Direzione di gara ha poi ammesso: Marquez ha rallentato deliberatamente Rossi, però non ha compiuto manovre scorrette, quindi non è sanzionabile, insomma antisportivo, ma un po' meno. Questa la lettura della direzione di gara, che ha tolto 3 punti dalla patente di Rossi, e uno era già andato via a Misano. Il regolamento prevede che partirà dall'ultima posizione a Valencia. Questo è Carlo, dimmi Roberto. Tornando all'articolo di Terruzzi sul Corriere, è vero, è criticabilissimo Marquez perché ha fatto la gara su Valentino e non la sua gara, e lo sbaglio è stato che l'ha fatto subito nei primi 3 giri, al 3° giro già aveva una condotta di disturbo che di solito si usa negli ultimi giri. Il problema è che lui l'ha fatto con i sorpassi, e i sorpassi in pista sono legali, è l'arma della sfida. Il gesto di Valentino invece no, non è contemplato, sono due pesi diversi, e quindi io confermo, cioè la lettura della direzione di gara secondo me è giusta. Il problema è che l'ha fatta dopo, troppo tardi, andava fatta prima, come ha detto giustamente Pernat, perché almeno risolveva le cose. E non dimentichiamoci anche dei tweet di Stoner, che ha scritto: se fosse capitato a qualsiasi altro pilota, a bandiera nera subito. Il nome di Vale è un peso. Graziano che dice: la donna è spagnola, è chiaro che faccio vicino gli spagnoli. No, la donna ha bisogno di Valentino. E quindi senza Valentino si spegne la luce, lo sappiamo tutti, e tutti lo amiamo e sappiamo che è una persona speciale. Noi abbiamo detto che è il rider dell'anno, è vero, prima di questo fatto, ma è così perché l'uomo dell'anno è lui. Però bisogna essere onesti e dare una lettura. Quello che io dico è, da spettatore appassionato, sono un po' deluso perché in telecronaca si faceva fatica a dire questa cosa. Guido, lo sappiamo tutti, è ovviamente molto amico di Vale, cioè, ha inventato uno stile, glielo si deve, e Guido è un grandissimo, però purtroppo se sei un professionista e un commentatore devi mettere da parte il cuore, la pancia e dire le cose come stanno, le cose che vedi, invece faceva veramente fatica. A un certo punto è arrivato a dire: non vendo fuori che Valentino è caduto per il piede, per il calcio di Valentino. Poi dopo si sono viste i replay, le immagini, e si è un po' rimangiato la cosa. E attenzione, non poteva chiedere aiuto a Capirossi, perché Capirossi è a stipendio d'Orna. Come fa una persona che ha stipendio d'Orna a emettere un giudizio sulla race commission, sulla gestione della gara? Sarà. E poi, altra cosa da dire, Capirossi nel 98 in Argentina rubò, lo sappiamo tutti, lo sa anche lui, un mondiale andando dentro sua rada all'ultima curva, all'ultimo giro. Quindi come fai a chiedere a una persona così? E lo sapeva, lui era nell'imbarazzo. Povero Capirossi, cioè non è a colpa, però no, ma era così, sai, ma in casi come questo prevale la pancia più di ogni altra cosa, più della razionalità, prevale la pancia sulla ragione, anche per il presidente del CONI Malagò, che oggi ha detto: sto con Rossi, così mondiale falsato. La poca sportività dimostrata da Marquez conferma quanto le dichiarazioni della vigilia di Valentino fossero assolutamente vere. Questo l'ha detto il presidente del CONI, non l'ha detto un giornalista, un telecronista. Sentiamo la pancia degli ascoltatori invece, perché sono davvero divisi. Roberto, poi ti saluto. Paolo, provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno. Ciao Genta. Ciao. Sono Paolo. No, finalmente un giornalista che dice le cose con le palle. Roberto Ungaro. Esatto. Sì. Esattamente. È la prima volta che si sente finalmente, oltre a Agostini e Lucchinelli, che hanno detto le cose finalmente fregandosene. Sì, Agostini nome, ieri qui da noi peraltro, sulla del stessa nome, del nome antisonante. Io premetto, sono un grande simpatizzante di Valentino, sono vicino di casa, ci ho giocato calcetto. Chi non ammira Valentino? Io l'ho sempre ammirato, però quando capitano queste cose mi sembra ovvio, sportivo e anche abbastanza morale dire le cose come stanno, perché non puoi prescindere dal fatto che ha fatto una scorrettezza, ci sono dei precedenti molto meno gravi. Faccio un esempio del povero Marco in Francia con Pedrosa, il suo passo all'esterno. Sì, certo. Ci sono mille esempi. Ci sono mille esempi, però ci sono anche scontri, lo ricordava prima Roberto, che hanno determinato, come quello di Capirossi su Arada, un titolo mondiale, ma era tra contendenti: Schumacher, Villeneuve. Poi vi faccio tutti gli esempi che volete: Schumacher contro Villeneuve RS nel 99, Senna contro Prost 89-90, ce li ricordiamo tutti. Quindi ce ne sono molti, ma erano contendenti per il titolo mondiale, per qualcosa. Nico Milano. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. No, io ho una lettura completamente opposta. Sì. Io devo dire che sono stato simpatizzante di Rossi per tanto tempo per la parte sportiva. Devo dire che me l'ha caduto un po' quando c'è stata la cosa non sportiva del fisco, eccetera, eccetera. Però io ieri ho visto un'altra cosa. Io ho visto Marquez che quando gli è andato sotto, questo è come io l'ho interpretato, e si vede, se si rallentano le immagini, si vede che il primo movimento che fa Rossi con la gamba è verso l'alto, non verso l'esterno, per cui secondo me, siccome la piantella delle motociclette, i motociclisti sono su veramente con le dita ed è molto facile, Rossi poi tra l'altro uno che perde molto facilmente il piede dalla piantella, e si vede ieri spesso. Non l'ha perso, questo sia chiaro. Scusami, se si guarda attentamente, quello che secondo non è successo e che è stato colpito sul tallone, cioè sulla parte posteriore del piede, che ha alzato la gamba e poi lui istintivamente l'ha portata fuori, poi che l'abbia portata, allora lì se poi si guarda al rallentatore, questa immagine è veramente patetico, lì stanno andando a 90 all'ora, cioè se la guardi al rallentatore devi pensare che in quel momento Rossi stava pensando al rallentatore, tutta quella cosa lì lo stava però guardando negli occhi. Nico, c'è anche Leo Turrini. Ciao Leo. Oltre a Roberto Ungaro per discutere di questo episodio, Leo, la tua. Dobbiamo cominciare con le notizie del traffico. C'è una rotonda a Busto Arsizio dove si sono accartocciati due motociclisti che sono appunto Valentino e Marquez. Ma cosa devo dire? Io vorrei citare Star Wars, Tre Stellari, il lato oscuro della forza. Qui secondo me bisognerebbe, come dite voi caro Genta che siete bravi, contestualizzare il tutto, nel senso che appartiene all'era dei campionissimi. Ho sentito prima che hai evocato Schumi, io mi ricordo Senna con Prost. Senna Prost, che talvolta quando ritengono di meritare un trionfo possono anche immaginare di andare oltre il limite, fuori discussione. Ma lì corrono per il titolo, però uno, ma in questo caso uno corre per il titolo, l'altro per impedirgli di vincerlo. Per questo ti parlo del lato oscuro della forza. Voglio dire questo: io sono d'accordo con chi sostiene che Valentino ha fatto una cosa che non è bella e non è eticamente corretta, no? Io quindi non sono qui come Marco Antonio davanti al cadavere di Cesare a lodarlo, ci mancherebbe altro. Però dobbiamo anche dire, forse tu l'hai già detto, che Marquez, che non è in lotta per il titolo, non si è comportato a sua volta come un amante dei valori dello sport. Sì. Perché se ne aveva di più, con la sua onda poteva andare via e cercare di staccare Valentino. Ha fatto come aveva fatto in Australia, cioè ha cercato, diciamo così, di ostacolarlo, di fargli venire la mosca al naso, eccetera, eccetera, eccetera. È molto semplice per noi, cominciando da me, che stiamo seduti su un divano, certo, con il telecomando in mano, giudicare, dire ah ma no, ma queste cose. Allora, io non ho mai creduto alle leggende secondo le quali fuori tasse debbono essere anche dei modelli di virtù, proprio perché ho citato Senna che era un mio amico, Sciumi erano dei formidabili fuori classe nel loro mestiere, ma non erano stinchi di santo. Non lo è neanche Valentino Rossi, non lo è mai stato, non lo è mai stato, non lo è nemmeno Marc Márquez, che è molto più giovane di Valentino, ma per come sta agendo tutto dimostra, fuorché un conclamato amore per i valori supremi della lealtà. Quindi insomma è un peccato, dispiace, però io quando si accendono i roghi sto sempre dalla parte della strega, è più forte di me. Aspetta, aspetta, aspetta, Leo, tu rimani con noi ancora un po', volevo l'ultima replica da Roberto Ungaro invece, su quanto ha detto Leo Turrini e su quanto ha detto prima l'ascoltatore. Allora, Marquez non è un stinco di sangue, lo sappiamo, in Moto2 aveva dei contatti con Iannone pazzeschi, ma un pilota è così, però c'è un limite. Quello che ha fatto il Valentino è il gesto che è intenzionale, il piede che è diverso, viene dai sorpassi. L'ascoltatore diceva che gli era scivolato il piede della pedana, ma non è così, si vede bene che non è così. Poi in ultimo la Race Commission adesso dice che non c'è stato il calcio, ma forse questa è una cosa che va bene un po' tutti per calmierare, perché altrimenti si alimenterebbe ancora di più, non hanno nessun interesse. E c'è stato il gesto intenzionale conclamato da frame by frame delle riprese. E la cosa che volevo dire è che ho sentito molto anche dire è stato un gesto di reazione distinto paragonato a Zidane. Attenzione che nel pallone rimane il livido, qua si cade, nella moto il gesto distinto, il calcio non può esistere da regolamento, cioè è un'altra cosa, è un altro sport, qua si va veloci e si rischia. E quindi è diversa la cosa. Certo, che Marquez ha rischiato la pelle anche lui ieri in quel duello, Sì, ha deciso di rischiare la pelle insieme a quella di Valentino. Era una curva comunque lenta. In quell'episodio però, sì, ma nella fase precedente no, Roby. Ma qual è il suo stile? Lui guida così, corre così, lo sappiamo, non puoi chiedere di guidare in un altro modo. È il suo stile di guida, certo, non deve esagerare. E come il calcio, quest'anno Fenati ha dato un calcio, ma ha 18 anni, adesso esattamente non mi ricordo quanti, è un bambino, imparerà a vivere, crescerà e capire le cose. Da un uomo, da il motociclismo di 36 anni, purtroppo non te lo aspetti, sei in mondovisione e ha delle conseguenze. La responsabilità del suo ruolo è questa, purtroppo, e Valle lo sa. Per noi è strano vederlo perdere le staffe. Cioè, questa è la verità. È questo che è irreale. Perfino io sono stupito, non vorrei vederlo così, ma è così, è così, capisci? Come vorrei vedere una telecronaca, ritorno, non voglio essere però una telecronaca che dica le cose, ma il mio non è, lo dico da spettatore appassionato. Sky ha un team, come si fa a essere parziali? Parliamone. Questa cosa, sai, ne parliamo, però un po' in silenzio. Capirossi, l'abbiamo detto prima, no? Capirossi è il mondiale che ha portato via nel 98. Come fai a chiedere a lui cosa ne dici? Regolare o non è regolare? Cosa ti può dire? Capisci com'è? È inutile dire, gli scrivo messaggini da casa, questo è un pilota. L'amico Sanchini è così, cioè sì, dica. Parliamo da appassionati veri. Sì, sì, Roby, ti ringrazio. A te. Devo mandare la borsa. Leo Turrini, tu rimani con me, non mi abbandonare. Dice la borsa. Attenzione al titolo Fiat Chrysler, che c'è lo spin-off Ferrari con Raikkonen che ha finito contro quel muro, ma ha tentato di ripartire. E il titolo si impegna, amici della borsa, prego. Questo mi ha dato la conferma anche al Samora oggi quando siamo andati a parlare dopo la gara, che mi ha detto che lui ha fatto così perché io gli ho fatto perdere i mondiali. Probabilmente non sa perdere. ecco, e preferisce che vinca Lorenzo rispetto a me. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Si ricomincia. Convocati. Io ringrazio il professor Turini per essere rimasto con noi, ma raramente abbiamo visto su una pista un episodio che abbia toccato così la pancia, il cuore, i sentimenti degli italiani come quello che è successo ieri a Sepang. Poi a Leo chiedo anche quello che è successo ieri in America, in questo strano weekend, in questa strana domenica, proprio al mattino, mondiale di Hamilton al pomeriggio. Leo. Sì, maestro. Senti, ci sono anche reazioni strane, cioè materazzi, immagini equivocabili, ci sono uomini e piccoli bambini, difendiamo Vale 46, del presidente del CONI ho già detto, sto con Rossi, mondiale falsato, è stato provocato e ha reagito. Pensa che stamattina c'era qui Marotta al Sole 24 Ore a tenere un master, è stata fatta una domanda anche a lui sull'episodio, ha detto che anche ai più grandi campioni può succedere di perdere la brocca sotto il travolti dal fiume dell'adrenalina, e questo può far parte dello sport. Prima ti citavo Star Wars, no? Mm. Allora, questo è tipicamente italiano. Fino a ieri mattina alle 7 Valentino Rossi era Luke Skywalker, no? L'eroe positivo. Poi è successo quello che è successo, si è trasformato in Darth Vader. Ora io voglio dire, ma cerchiamo di avere un minimo di senso dell'equilibrio. Io non voglio essere frainteso, ripeto, non lo difendo mica. Ho fatto gli esempi di Senna con Prost, Schumacher con Villeneuve. È stato sicuramente un gesto da condannare, è stato anche punito. Io non conosco i regolamenti della MotoGP, non so dire se la sanzione sia adeguata o meno. È automatica, perché scatta la perdita del quarto punto della patente, quindi parte uno. Ma ripeto, bisogna ricondurre il tutto al contesto della vicenda, nel senso che certamente Rossi non si è comportato da santo, e altrettanto sicuramente Marquez in questa vicenda non ne sta uscendo con i panni dell'eroe Io poi ieri mi sono messo a riguardare la gara dopo per cercare di capire meglio, insomma, l'atteggiamento di questo ragazzo, che è un talento naturale, bravissimo, ha dimostrato l'anno scorso, eccetera, eccetera, eccetera, era quello dell'agente provocatore. È andato lì a fare a cazzotti in pista. Alle storie della Spectra, hai capito? Perché tu hai fatto bene a segnalarlo, Marquez non sta difendendo le sue chance per il titolo. Io non dico si deve tirare da parte e mettersi dietro, però se ne ha di più con la Honda sulla Yamaha di Valentino, che vada via, faccia la sua corsa e poi magari arriva primo, secondo, terzo, quello che è. Gli ha corso addosso deliberatamente. Quello che diventa incomprensibile è questo. Allora io adesso farò una citazione veramente molto profonda. Quando io ero al liceo ci fu uno che mi sottrasse la ragazza che io agognavo raccontando una balla mostruosa con Stein. Io decisi di non reagire. Ecco, Valentino nella circostanza probabilmente avrebbe reagito. Peraltro poi quella ragazza, come dice Springsteen nel film Bruce, dai, si è pentito. Si è pentita. Ma voglio dire, è un peccato, perché tutti abbiamo detto un mondiale delle moto bellissimo, il vecchio campione che tenta la decima impresa, che lotta contro il fiero di una generazione diversa, ci stavamo esaltando, entusiasmando, eccetera. Adesso è venuta adesso fuori la cattiveria, siamo caduti dalla moto insieme a Marquez. Però io ti ho detto, c'è il lato oscuro della forza che purtroppo appartiene a ognuno di noi. Tutti quelli che adesso condannano implacabilmente Valentino, io vorrei che si ponessero questa domanda nella vostra vita quotidiana, ogni giorno. Non vi è mai capitato di fare una cosa distinta, sbagliata, Sì. Ripeto, sbagliata, non vi è mai capitato. Lo chiediamo a Pardo? No, è tornato Pardo. Sì, io sono Pardo. Pardo, sei una leggenda, vive. Come stai, Pardo? Ho visto lo Zoppi l'altro giorno, ma io sto, ma sai che Pardo ormai ci sono qui a Forvigine perché ci ho detto che andava a scuola, perché no il Noso ha per te una venerazione, mi ha detto guarda che Pardo sta all'informazione televisiva come Pelé, che ha appena compiuto 75 anni stava al calcio, hai capito? Quindi tu hai un seguace in Nosotti, caro Pardo. Io mi adeguo, divento anch'io un tuo devoto ormai. Questo tiki taka è diventato come House of Cards. House of Tickets. Dimmi la tua, Pierluigi. Io sono con Valentino, nel senso che qui adesso io lascio tutte le questioni regolamentari ai tecnici, lascio tutte le questioni morali ai moralisti. Io non sono moralista, e sicuramente ha fatto un gesto sbagliato, e dal punto di vista anche sportivo ha ceduto alla pressione, quindi ha fatto una cazzata essenzialmente, oltre che una cosa potenzialmente pericolosa, insomma non credo che ci siano discussioni. Però qui alla fine, da quello che ho capito e mi ha spiegato Terruzzi, che ho letto sui giornali, qui siamo di fronte a uno che essenzialmente girava con un secondo in meno rispetto al warm up, cioè uno che invece di seminarlo e andarsi a fare la sua gara stava lì per rompergli le palle ripetutamente. E quindi poi se usciamo dal moto GP e entriamo nella metafora della vita, bisogna decidere se stare con uno che ha passato il tempo ad attaccare briga e a romperti le scatole, oppure con uno che di fronte a uno che gli rompe le scatole reagisce distinto, sbagliando. E fra i due io sto con Valentino. Guarda, io vi leggo quanto ha scritto anche Romagnoli oggi su Repubblica. Sì. È facile non rispondere alle provocazioni quando le ricevono gli altri, facilissimo quando siamo in poltrona. Per strada siamo diversi, dovremmo avere l'onestà di ammetterlo, e lo faccio. Dopodiché si diventa grandi superando anche quel limite, si diventa immensi se si riesce a farlo ai 200 all'ora con un tafano radiocomandato sul collo. Marquez voleva buttare fuori Rossi, Rossi ha buttato fuori Marquez. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Premetto, sono un ex pilota, ho avuto la fortuna di correre insieme anche a Valentino. E anche insieme a Ungaro ho girato in moto. Ungaro Mancino, ragazzi, sì, ricordatevelo. Sì, lo so bene. Perché il gas è a destra. Comunque, al di là di questo, io questa mattina ho visto dei filmati che fino a ieri non erano disponibili di quanto accaduto. In base a questi filmati frontali si vede perfettamente che è Marquez ad andare contro Valentino, e per cui è impossibile dare la colpa in questo momento a Valentino. Attenzione, non sono un tifoso di Valentino, non mi interessa, però. Ma quel piede filmati, sollevato? Quel piede sollevato? Il piede sollevato è ben dopo la testata che Marquez dà involontariamente, peraltro, al ginocchio di Valentino. Si vede molto bene, proprio il filmato è molto chiaro, una ripresa frontale. Si vede che Marquez tenta di chiudere la curva, per cui va addosso a Valentino. Valentino sente appoggiare il casco sul suo ginocchio, e a quel punto è una reazione normalissima quella di spingere in fuori la gamba, e viene fuori anche il piede. Ma è proprio dopo questo contatto tra il casco ed il ginocchio di, esatto, di, cioè è proprio Marquez si appoggia su Valentino. Per cui io sono convintissimo che se la direzione di gara avesse avuto questo filmato da visionare, non avrebbe avuto nessun dubbio. Adesso c'è un ricorso da parte della Yamaha, vedremo se sarà deciso diversamente. Pietro da Milano, poi rispondiamo tutte e due con Leo Turrini per Luigi Pardo. Pietro? Sì, se era possibile, voglio chiarire subito, sono Rossi, non mi è simpatico, perché qua sono tutti pro Rossi. Io capisco che può essere difficile mettersi contro Rossi per Materazzi, ma no, questi personaggi pubblici, però una cosa, due cose le voglio dire, se posso. Sì. La prima, l'italiano non è un popolo di motociclisti, si intende forse di Formula 1, ma forse di moto non, insomma, non siamo mai stati grandi appassionati. Insomma, relativamente. Giusto, ma penso. Relativamente. Abbiamo grandi marchi e grandi numeri, Ducati, Guzzi, e posso andare avanti per ore, citando anche quelli che non ci sono più, che hanno portato sulla moto generazioni di italiani, non voglio dire la Vespa. Dica, poi? Sì, no, niente. No, volevo dire che mi sembra un pochettino strano che adesso sono tutti con Valentino, perché ricordiamo che Valentino non è stato neanche squalificato per quello che ha fatto, cioè la gara l'ha finita. Sì. E Valentino era uno che quando era con la Honda, io me lo ricordo bene, con Biagio e Gibernau, di queste cose ne ha fatte a quantità indefinita, perché era più veloce, gli stuzzicava, Biagio cadeva, sì, gli faceva la battuta. I famosi mind games di Rossi è sempre stato il maestro di questi giochi mentali che hanno mandato al manicomio un sacco di piloti, Biagio, Gibernau, tanto per dirne due, ma anche lo stesso Lorenzo era totalmente sotto pressione, ed è uno che la pressione non la regge. In questo caso nel mind game è caduto lui stesso. Traffico, poi Pardo e Turrini. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Convocati. Momento en el que los dos tenían que prestar sus declaraciones a dirección de carrera. En ese momento se encuentran y en ese momento va a ver por primera vez Valentino Rossi lo que había sucedido, lo que había pasado. Así reacciona, con este gesto de incredulidad. Y así, incredulidad también, abandonaba Marc Márquez. El momento en el que analizaban el vídeo, insistimos, gran carrera, con ironía le decía Valentino Rossi, gran patada, le respondía Marc Márquez. Sono incrociati dopo la gara. Gran bella gara, gli ha detto Valentino, e lui, gran bel calcio, gli ha risposto il ragazzino. Io voglio chiedere a Leo Turrini le ultime due cose prima di salutarlo. C'è anche in linea Filippo Maria Ricci, oltre che Pierluigi Pardo, poi andremo anche sul pallone, naturalmente, sui temi che ci ha lasciato la domenica. Leo, tu hai mai visto qualcuno non interessato al mondiale correre contro chi? C'è una situazione di questo tipo, correre per non far vincere qualcun altro, primo. Secondo, lasciami un commento su, poi torniamo a parlare nei prossimi giorni, sul Moro tricampione del mondo, il tricampeao. La prima cosa, no, io in tanti anni che ho modo di seguire le corse, che un intruso, e poi ripetutamente dico un intruso rispetto alla battaglia per il titolo, si sia arrogato il diritto di essere determinante nella battaglia, no, non me lo ricordo. Volevo rispondere un attimo al volo con l'ascoltatore, sì, di prima. Io non sono qui a difendere Valentino Rossi, ho detto che ha sbagliato, però insisto, mi pare che ci si debba rendere conto anche del contesto, della situazione, se no è troppo facile. Per quanto riguarda invece il re nero della Formula 1, come vuoi che ti dica, questo Lewis Hamilton è come Pardo, è un predestinato, hai capito? Non c'è niente da fare. Allora, come Pardo da piccolino bussò alla porta di Aldo Biscardi dicendo voglio diventare come te, eccetera, Hamilton, Hamilton andò alla porta, grazie, Aldo Pardo, lo sai che si sto testando. Abbiamo la stessa macchina, ma non abbiamo la stessa donna, perché mi risulta che sia con Rihanna, vero? Sì, però negli ultimi tempi pare che qualche cosa non abbia funzionato tra i due, ma però insomma, se ti interessa l'argomento mi aggiornerò. Vabbè. Allora, dicevo, Hamilton, come Pardo con Biscardi, bussò alla porta di Ron Dennis e gli disse io voglio diventare come il mio idolo d'infanzia che era Ayrton Senna. È una storia in sé molto bella, perché è vera. Hamilton, tra l'altro, sin da bambino nei kart aveva come rivale Rosberg, e lo ha sempre bastonato, sempre battuto, un po' come Pardo con Nosotti, e quindi ci troviamo adesso con un personaggio che effettivamente, come dicono quelli bravi, buca gli schemi, sì, gli schermi, perché ha già vinto tre mondiali, ha una macchina fantastica che è la Mercedes, ma noi disponiamo dell'alternativa, l'arma fine di mondo che è Seb Vettel, che anche ieri, partendo dalla settima fila con una Ferrari in grande progresso, è arrivato terzo. E immaginatevi quando il mio pupillo, il santo bevitore Kimi Raikkonen, alzerà meno il gomito, non finirà contro le barriere scardinandole per ripartire e sarà in gara dal primo all'ultimo giro. Io prevedo un 2016 trionfale per la Ferrari, per Vettel, per Raikkonen e per Pardo. Grazie Leo Turrini. Capito, Pierluigi? È tutto chiaro. Sono commosso. Adesso ti passa anche il numero di Rihanna. Abbiamo fatto tombola. Malissimo. Siamo bene. Stiamo già bene così. Filippo, però, mi sembra, francamente, adesso non voglio. Non me ne vorrà che ci sia una differenza di adrenalina fra il mondiale di Formula 1 e il MotoGP veramente impressionante. Nel senso che un po', secondo me, si lega anche al meccanismo specifico delle gare. Nel senso che comunque la quantità di sorpassi, ieri si è anche esagerato da questo punto di vista, ma mi ha ricordato un po' la cosa fra la cosa di Arnaud Villeneuve, quello che ho visto ieri, Schumacher Villeneuve RS 97, quando no, però no, io ero bambino quando ci fu René Arnoux contro Villeneuve, quella Ferrari contro Renault, questa non me la ricordo più, Turini. No, è andato via, non è c'è, andato via, lui però in compenso c'è Filippo Maria Ricci che ci racconta cosa dicono in Spagna. Vai Filippo, ciao. Maria Ricci, hola, che si dice lì? Buon pomeriggio. Cosa si scrive? Crocifissione di Valentino Rossi in attesa di vedere l'esecuzione finale sul circuito di Valencia. Però una cosa, bisogna fare una premessa, sì. La premessa è fondamentale, cioè qui Valentino è o era fino a ieri pomeriggio un mito autentico, come in tutto il mondo, spesso. Come in tutto, sì, il mondo, sì. Però non succede spesso che la Spagna, paese di solito non proprio incline all'amicizia, diciamo, pieno di falsos amigos fronte dell'Italia, un paese che ha prodotto anche grandi oppure campioni di motociclismo, restasse così affezionato a un rivale. Questo va detto prima di tutto. Cioè la delusione qua è grande, anche perché c'era grande amore, grande passione per Valentino. Poi è chiaro che adesso questi portano acqua al proprio mulino e fanno fatica a vedere, a criticare Marc Márquez, e quindi crocifiggono Valentino. Però voglio dire, la crocifissione non è molto diversa da quello che si legge in Italia. La differenza qual è? Che qui nessuno tocca Marc Márquez, sì, e certo. In Italia sì. Questa è la grande differenza. Sì. Però qua l'amore era vero. Io giro per strada e per strada la gente va in giro con i caschi, con i cappelli, con i giubbotti, ma, e con il numero 46. Ma guarda che in tutti i circuiti del mondo il rapporto, sì, tra di tifosi tra Valentino Rossi e tutti gli altri è l'80%. Però questo è il paese di Marquez, Pedrosa, 8 su 10. Lorenzo, tu che vedi giallo prima. Lo so, ma no? Tu su tutti i circuiti del mondo, ed è per questo che dico, la Dorna non so se può permettersi di chiudere questo mondiale in tal modo, in cotal modo. Su tutti, sì, i circuiti del mondo che i gialli sono 46. Sì, no, ma questo è più normale, è più scontato. Cioè, poi loro qua fanno tanto gli amici, ma non sono così amici, no. Quindi, insomma, Valentino si era conquistato il pubblico spagnolo sul serio. E quindi la cosa di ieri è uno shock, perché comunque il calcio, voglio dire, lì resta, basta, insomma. L'ha buttato giù, è chiaro, quello è andato a mettere la testa dove non doveva mettere, e si è preso quello che si è preso. Però, e quindi di conseguenza oggi vanno giù pesante, però resta il fatto che la partenza è una partenza di diciamo di affetto o di, sì, ammirazione, sì, che era smisurata. I più duri chi sono? Ma è tutto uguale, è guarda. Tutto uguale. Per me non c'è grande differenza, c'è chi dà più o meno spazio, cioè per esempio non giocava al Madrid, il Marca è andato in prima pagina. Su AS mettono una cosa in alto, però continuano, preferiscono aprire con i portieri e Keylor Navas. Usano tutti, ci sono due foto che girano tantissimo, quella con Valentino con la faccia stravolta, diciamo con il gocciolante a fine gara, e questa per esempio c'è sia sul Paese che sul Mundo, nelle prime pagine dei inserti sportivi, e quella ovviamente di Márquez e Rossi, mi sembra Montmeló 2008, sì, quando bambino Márquez che bambino si fa la foto, Márquez con fa la foto con Valentino, sì. Però qua si insiste molto sul concetto che comunque quello che fa Márquez può non piacere, ma non è sanzionato da nessun regolamento. Questo è vero, questa è la realtà, e non è sanzionato da nessun regolamento, anche se pure a lui sono state tirate le orecchie. Poi io mi domando perché, viste le premesse della conferenza stampa del giovedì, magari un intervento preliminare, un'ammonizione preventiva, fate i bravi se non andate fuori tutti e due, ma con la bandiera nera, poteva anche avere un senso. Dico, torniamo a quel giovedì, cioè Valentino lì per me sbaglia completamente, perché va a dire certe cose quando secondo me lui, che ha un dominio della dialettica e dell'ironia non comune, era sufficiente dire: oh, ma hai visto che amicizia che è nata, no, tra questi due, non si potevano vedere, guarda un po' ma era molto, Phil era molto nervoso e probabilmente ha voluto in quel modo mettere pressione su Marquez, mettere le mani avanti, e poi il gioco gli si è rivoltato contro. Filippo, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ciao Pierluigi, ciao, tu stai lì che dopo abbiamo il calcio, dopo questa GM. Cosa comunque era Arnoux contro Villeneuve del 79, 79. Appena rivista, meraviglioso. Scrive Sergio peraltro via SMS, abbiamo ascoltatori troppo competenti. Dopo GR ci sentiamo. E sti cazzi, come avrebbe detto Genta, che è finlandese come Raikkonen, hai capito? Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Con gli uomini oltre la metà campo, corre Gervinho, arriva Salah, c'è Gervinho in area di rigore, Gervinho! 2-0 per la Roma! Avanza Goulam, subito il cross, Higuain, rete! Si sblocca il PP in trasferta, un gol da fenomeno! Felipe Anderson, Lulic, guarda Madri, poi vada Felipe Anderson, controllo destro! Perfetto per Felipe Anderson! Adriano fa felice il Milan a 5 dalla fine, e il 2-1 di Luis Adriano al secondo gol in campionato, forse il più importante. Lo scarico su Dybala, al limite Dybala, carica il sinistro, Dybala! Juventus 1, Atalanta 0, la firma al 28esimo di Paolo Dybala. E così abbiamo cominciato ad aprire anche la pagina del calcio, che tra poco commetteremo con Pierluigi Pardo, per questa giornata che ci ha lasciato, a mio parere, quattro macro temi sul Prato Verde. Ascoltatori scatenati però sul tema Valentino Rossi Marquez, ma su cui torneremo anche domani. Pierluigi, quattro macro temi, dicevo, prima di Michele e Vito, che sono già in linea. Napoli come le grandi squadre, Napoli come le grandi squadre vince a Chievo, alla maniera delle grandi squadre vince a Verona con il Chievo. La Roma, ieri era da titolo, sarà sempre da titolo. La Juventus, c'è la questione di Dybala e se vogliamo anche quella della regressione di Pogba. Milan esorcismi, sofferenza, un portiere del 99, l'ultimo assalto disperato, Luis Adriano ha permesso al Milan di battere Sassuolo in 10, ma nulla è cambiato a mio parere. Ma sì, tanti temi, hanno vinto tutte, tranne l'Inter hanno vinto tutte. Mi pare che il premio della critica possiamo continuare a darlo a Napoli e Roma, che sì, mi sembrano, sì, le due squadre più compiute, più pronte, più brillanti. Attenzione alla Lazio, anche perché è tornato a sbloccarsi Felipe Anderson. Sai, io alla Lazio ci credo molto, perché secondo me è una squadra un po' sottovalutata mediaticamente, della quale si parla poco, che ha problemi con i suoi stessi tifosi, per ovviamente tutta una serie di dialettiche e di dibattiti interni. Ciononostante, con uno stadio vuoto per metà, 8 partite, 8 vittorie in stagione tra campionato e coppe, però Napoli-Roma mi sembra onestamente la sfida più... Sì, in questo momento la più plausibile anche, Dove in questo momento. Gli argomenti sono due, sono in conflitto uno con l'altro. Da un lato il Napoli mi sembra la squadra più sicura, più solida in questo momento, quella che concede meno, quella che brilla di più. Dall'altra sicuramente la Roma in testa alla classifica, con tutte le critiche, le discussioni, i casini, anche lì la curva che protesta col prefetto, però prima in classifica, uno viene a dire se Dzeko si sblocca, se Totti torna, se Rudiger o Castan recuperano, insomma ha dei margini di miglioramento. Se magari Sabatini prende anche qualcosa sul mercato di gennaio, certo. Un altro c'è da aggiungere. Michele da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Riguardo la questione di Valentino Rossi, certo. Siamo io qui il mio collega, stiamo restaurando degli affreschi e stiamo parlando della, della questione qui di Valentino Rossi. Niente, in ogni luogo d'Italia, in ogni faccenda affaccendati, oggi si parla di questo, in tutta l'Italia. Sì, tutta Italia parla di questo. E dunque, Valentino Rossi nella sua carriera si è sempre contraddistinto per simpatia e sportività. Marquez un po' meno, quindi Valentino Rossi dovrà partire dall'ultima posizione, ma si aprirà il Mar Rosso davanti a Valentino, tutti gli altri lo faranno passare e lasceranno libera strada, via. Sì, arrivato a quel punto dovrà provare a vincere il mondiale, perché non lo so perché mi diceva l'ottimo Terruzzi che il circuito di Valencia è un circuito quasi da cartodromo, è un circuito che non aiuta molto i sorpassi, dove non c'è tanto spazio per superare, e quindi l'ultima fila e l'ultima posizione sono un problema se possibile ancora più grande rispetto ad altri posti. Detto questo, questo è l'auspicio, io ti farò Rossi senza se e senza ma. Ma non per una, per chissà quale simpatia nei confronti di Rossi, perché non è che abbia nessuna, non sono certamente né un appassionato né un tifoso, però mi sembra che in questa vicenda qui, come dicevo prima, alla fine sbaglia, ma è un errore in qualche modo provocato da una guerra di nervi e quindi mi infastidisce, poi perché credo che sarebbe il modo migliore per chiudere una carriera leggendaria. Ho la sensazione che sia abbastanza sulle scatole a parecchi suoi colleghi, però come tutti i grandi. Beh, e ho anche la grandi. Sensazione che poi nel MotoGP, soprattutto negli sport di velocità, tu vinci fino a quando non arriva uno che è cattivo tra virgolette come te e più giovane che può farti sì, del male. Esatto, poi non dimentichiamo che anche Valentino Rossi, ma l'abbiamo detto prima, uno stinco di santo non è mai stato, ha mandato a Michael Mio Gibernau, ha fatto diventare pazzo Biaggi, che oggi ha scritto un tweet in cui ha tenuto la bocca chiusa con il simboletto della bocca cucita. Sull'episodio, scrivendo semplicemente: condotta di gara intelligente, un bravo e freddo Lorenzo, bel successo di Dani Pedrosa, del resto puntini, meglio non parlarne. E l'omino è presente, l'omino già, la faccina gialla con la bocca chiusa. Beh, Biaggi ti fa Lorenzo senza alcun dubbio. Sì, sì, ma sì. L'ha detto anche, devo dirti una cosa che mi piace un po' di questo ambiente, che mi piace molto, è che c'è meno ipocrisia rispetto ad altri sport. La cosa bella di una brutta storia come quella che è successa ieri e delle polemiche anche della settimana è che non se ne mandano a dire. Cioè tu hai gli uomini, hai le antipatie, hai le alleanze, hai la rappresentazione della vita all'interno di un circuito. Sì, sì. Cosa che invece spesso a livello calcistico... No, c'è molto buonismo, sai, gli avversari sono bravi, ma poi magari vai nello spogliatoio e fai come il signor Capuano, no? Esatto. Volevo salutare e ringraziare Nando Orsi, ex portierone, oggi commentatore, oggi buongiorno, talent. Ciao Nando. Sento una voce conosciuta dall'altra parte. No, è finto, è un fake. Non è lui, non è Paolo. No, È lui. Va bene, Nando, come la pensi sulla storia di Rossi? Così prima di parlare di calcio ci leviamo anche questo. Ma ragione Pierluigi, c'ha ragione. Perché a parte che lì rischiano la vita, quindi giustamente possono dire anche quello che vogliono. Quindi, cioè, già su questo noi viviamo lontani anni luce da quello che, cioè noi li vediamo da fuori e non ci rendiamo conto cosa rischiano, quindi quando rischiano la vita diciamo che qualche cosa in più potrebbero dirla. Poi dopo sì, è vero, queste cose non si fanno, anche perché, cioè, se tu mandi per terra qualcuno volontariamente rischi veramente di fargli male, ma di brutto, perché non è che vanno che stanno facendo una maratona, sai, e quindi qualche problema ce lo possono avere. È indubbio però che questi due ragazzi, secondo me, non c'è stato mai un buon feeling fin da quando hanno cominciato a correre, o se le sono promesse e poi alla fine se le sono date. Esatto, se le sono date, anche perché era in palio il titolo, non mondiale, esatto, perché Marquez non ha più vinto, ma di maschio alfa del branco, come è stato detto correttamente ieri. Quindi... Poi per Rossi c'era una... un'eventualità incredibile, cioè di vincere il decimo campionato, titolo mondiale, quindi, certo. Quindi a Marquez questa cosa, tutti ma non lui, esatto, perché adesso il re sono io. Esatto. Proviamo a parlare di pallone, ma ci sono altri ascoltatori in linea che poi sentiremo, tra poco sentiremo. Partiamo dalla Roma, se vi va, con le voci di Garcia ma anche di Capello. Per il momento, dopo 9 partite, vuol dire un quarto di campionato, siamo primi, ma c'è tanta strada da fare e ovviamente che non è questa presa di posizione in alto alla classifica che fa di noi i favoriti. Io sono contento della mia squadra, dei miei ragazzi, perché dall'inizio della stagione non hanno mollato mai. Non abbiamo fatto sempre bene, ma per essere primi con 20 punti dopo 9 partite almeno abbiamo fatto un po' bene, diciamo. E il fatto che la Roma abbia la Champions, attenzione, è un peso, è un problema arrivare in fondo. Quindi questa Roma, non so se per vincere lo scudetto deve non fare la Champions. È una cosa brutta da dire. Perché poi c'è l'Europa League, se arrivi terzo, se vogliamo. Esatto. Però la Roma c'ha il potenziale per fare molto, molto bene. Allora, si tratta di capire se la Roma, dopo la vittoria meravigliosa ieri a Firenze, abbia trovato continuità, equilibrio, e poi ha ragione Pardo quando dice, Nando Orsi, che tutto sommato in un inizio di stagione molto difficile, con contestazioni, con infortuni, con problemi di varia natura, con Garcia più volte in bilico, beh, adesso dopo 9 partite sei primo in classifica, che vuol dire? Vuol dire che, a parte che la Roma secondo me è stata costruita, e sono 2-3 anni che la Roma è costruita per vincere i campionati, poi dopo un anno trova la Juve, un altro anno pure trova la Juve, e quindi quest'anno cioè la Roma fa degli investimenti per vincere i campionati, poi dopo non ci riesce e quindi qualche problema ci sarà. Quest'anno forse potrebbe essere anche l'annata giusta, perché non c'è più la Juventus che fa da lepre, e quindi è ovvio che bisogna che la squadra ne approfitti. Quello che vedo in Garcia, e vedo gli è passato un po' di presunzione nelle sue interviste, quando diceva che vinceva lo scudetto a tutti i costi. Adesso ha capito che a Roma è un ambiente difficile, prima di parlare ci devi pensare 100 volte, quindi giustamente butta un po' d'acqua sul fuoco, però lui sa benissimo che questo potrebbe essere l'anno giusto. Ieri la Roma con la Fiorentina ha trovato la sua partita adatta, perché dopo 6 minuti se la sblocca il risultato. Poi c'è stato quel secondo gol che francamente non vedi neanche in promozione. Esatto, ma delle volte può succedere, perché la Fiorentina è una squadra che in questo momento è vero gioca bene, ma da inseguitrice tutta la vita diventa inseguita, e quindi le pressioni ci sono, ti prende un po' di... Però come si dice? Tutti nei 40 metri offensivi, mentre viene battuto un calcio d'angolo, a Florenzi basta prendere la palla in sua area e tirarla lontano, Gervinho fuga per la vittoria. Stava 10 metri dentro la sua metà campo, certamente. Ancora peggio, però può succedere, lo sai quante volte su calci d'angoli a favore si prendono dei contropiedi oceanici, e questo però sinceramente è raro vederlo. Pierluigi, tu hai visto la Roma sia Leverkusen che ieri a Firenze, ha cambiato qualche cosa negli ultimi tempi Garcia? Ha fatto una mossa che tu dici può essere stata quella giusta? Dopo Leverkusen ne avevamo anche parlato, avevo visto una partita, io a Leverkusen non ho visto una brutta partita, cioè ero fra quelli che sono usciti da quella partita con una sensazione chiaramente di bicchiere mezzo vuoto per il risultato, che è molto negativo per la Roma, ma positiva dal punto di vista dei segnali che quella partita aveva mandato, perché ci torno in 20 secondi, ribadisco che il 4-3 è un gol trovato, e prima di quel 4-3 la Roma non aveva praticamente mai concesso palle gol. Certamente deve migliorare nella gestione della partita, del possesso palla, però io mi ricordo, cioè, in sala stampa c'era un livello di depressione cosmico che io francamente non condividevo e non condivido. Ero molto curioso di vedere che reazione avremmo avuto ieri in un ambiente appassionato ma non facile, perché ti può mettere tanta pressione come quello di Roma, e mi pare che ci sia stata la risposta migliore, perché è vero che la Fiorentina ha fatto il 70% di possesso palla, però è anche vero che la Roma ieri ha dato una sensazione, secondo me, di grande forza, di grande compattezza, forse per la prima volta in stagione. Leverkusen era stata una rivoluzione, cioè io a Leverkusen ho visto cose che la Roma quest'anno non aveva, secondo me, mai fatto vedere, forse soltanto all'inizio, soltanto nel primo tempo contro la Juve, in positivo dico, e ieri le ho riviste. Poi certo, una grande squadra è anche una squadra che riesce a tenere di più il possesso palla, che riesce per esempio nel secondo tempo a rischiare di meno, cioè secondo me non è molto diverso il tipo di approccio che c'è stato ieri nel secondo tempo con quello che si è visto all'Everkusen. Per fare il salto di qualità definitivo dovrebbe avere una forza, una capacità nell'incartare il possesso quando va a sembrare. Sì, come ad esempio in questo momento riesce a fare il Napoli. E allora sentiamo Sarri e Wayne. per lo scudetto, per la Champions League, qualsiasi obiettivo, insomma il Napoli c'è, questo lo possiamo dire, anche perché c'è un attaccante che segna ripetizioni in Europa e in campionato. Il nostro obiettivo è mercoledì, chi la pensa diversamente non deve neanche entrare nel nostro spogliatoio. No, era una partita importantissima, l'ho detto, dobbiamo vincere per continuare lì sopra e per questo veramente siamo felici, credo che abbiamo fatto una partita quasi perfetta senza lasciare calciare a loro nessuna situazione chiara, solo la del primo tempo per una perdita di palla nostra e dopo penso che abbiamo meritato di più, no? Ecco, Nando Orsi, prima dicevo quello che diceva prima Pardo, cioè quegli elementi che servono per vincere lo scudetto, in questo momento Napoli ce li ha, cioè grande compattezza, la capacità di incartare la partita, grande pazienza. Ieri ha giocato, dicevo prima, ha vinto come fanno le grandi squadre. Sì, anche perché a differenza della Roma e delle altre squadre, il Napoli ha praticamente cambiato pochissimo, perché gli attaccanti lì davanti ce l'ha già da 3 anni. Perché Hamsik ce l'ha già da 3 anni, ha messo Allan in più e Isai, che non è che sia proprio Francisco Marigno, per dire, no, però è un giocatore che sta lì e fa la fase difensiva. Ecco, penso che sia più strutturata, no, come squadra, ed è ovvio che ha trovato poi un allenatore anche un po' elastico, a differenza, che ne so, dall'anno scorso di Benitez, che era un allenatore molto più schematico nel suo modo di giocare, con questo 4-2-3-1. Ha cominciato in un modo, adesso ha capito che il miglior modo per giocare per il Napoli è proprio questo, soprattutto per i 3 attaccanti, ed ecco che l'alchimia viene fuori. Ha ritrovato un giocatore come Jorginho, che secondo me in un centrocampo a 3 è uno dei migliori centrocampisti italiani, e quindi è ovvio che ha messo a posto un po' la difesa, ha trovato un allenatore didattico, un allenatore che a Napoli serviva, sì, perché cioè, poi dopo perché poi dopo giocano Higuain, Insigne, Callejon, Gabbiadini. Ogni tanto io non penso che no, Sarri vada a prima o poi va dentro, no, esatto. Ma infatti il Napoli dà quella sensazione lì, quella di sapere, esatto, che con pazienza prima o poi il colpo lo trovi, esatto. Mi ha dato questa sensazione anche ieri, cioè quella di una grande sicurezza per Luigi. Sì, ma ti ho detto, il Napoli è la mia favorita, il Napoli è la squadra che gioca il calcio sempre davanti alla Roma. Cioè non la Roma, ma sì, no, ma sono curioso, sono curioso. Poi magari succederà il contrario, mi sembra la sfida scudetto, mi sembra che il Napoli abbia in questo momento una quadratura che la Roma non ha, però ripeto, questo può essere anche un ottimo argomento a favore della Roma, nel senso che uno può dire, se la Roma, che non ha questa quadratura, che ha avuto Dzeko fuori per tante giornate, che ha avuto l'allenatore addirittura in bilico, che in questo momento ha fuori Totti, che non ha ancora recuperato del tutto Castan, che c'ha insomma un sacco di con Szczęsny che non sta facendo certamente il fenomeno, sta a +2 e comunque sta tenendo botta con 4 vittorie consecutive, pensa che succede se questa squadra decolla. Questo è un ragionamento che ci sta, secondo, sì, certo, me assolutamente. Però da in questo momento secondo me il Napoli ha qualcosa in più, e se ti devo dire la mia favorita ti dico il Napoli, l'ho detto un mese fa, come il Napoli Lazio continuo a pensarlo, però ecco, non sarei stupito di vedere lo scudetto alla Roma, ecco. E credo che, come sempre, approfitto anche della presenza del signor Orsi, come dicevamo prima, ci sia un po' di sottovalutazione della Lazio, che se ritrova il Felipe Anderson dell'anno scorso, delle 8 vittorie consecutive, insomma, è una squadra, non da scudetto, è una squadra tosta. Tosta. Beh, certamente. Non da scudetto, ma secondo me può rifare lo scherzetto di arrivare terza. Ma o comunque sì, la mosca bianca. È la mosca bianca la Lazio. Il problema della Lazio è che c'era 13 dei giocatori, 12, esatto, 13. Poi esatto, dopo, se gli mancate Frey per altri 3 mesi, e ogni tanto Biglia si fa male, Parolo gli mancano altri 20 giorni. Esatto. Lì davanti l'attaccante Djordjevic, una volta c'è. È una squadra nei 13, una grande squadra. Il problema è che manca il contorno. Squadra corta, tu dici, Nando? Sì, penso di sì. Poi dopo la Lazio c'ha 2000 problemi in casa, i tifosi ne parliamo, sono anni. Anche qui, Nando, tu pensa con un po' di compattezza in più, con un po' di entusiasmo in più, no? Però prego qualche giocatore al mercato di luglio in più, certo. Perché con l'Everkusen nei preliminari forse qualcosa doveva essere. E poi gli manca la Lazio, secondo me, La capacità di poter fare le stesse cose che fa in casa fuori casa, perché fuori casa ha grandi problemi, e quindi sai, lì subentra un po' la personalità, cosa che invece la Roma i giocatori ce l'ha, De Rossi, vedo Dzeko, vedo insomma, il Napoli, cioè, quindi è più pronta sotto questo punto di vista, però è vero che può essere una squadra che porta fastidio fino alla fine, certamente può replicare la stagione dell'anno scorso. Nando, grazie davvero, ciao. Pierluigi, abbiamo 2 minuti e 2 ascoltatori, certo, li ascoltiamo subito, rapidamente. Massimo, provincia di Genova. Pronto? Pronto, dica. Sì, grazie di avermi convocato. A Senta, lei. Io volevo dirle, tanto sono testimone della più grande della Formula 1 di René Arnoux e Villeneuve. Ah, testimone oculare dell'incidente di... Sì, testimone oculare, ero sopra la collina dove sotto di noi si era girato Giacomelli con l'Alfa Romeo. Ah, eravamo cinque bandieri Ferrari con due colline di bandiere Renault. Perciò pensi che grande. È uno spettacolo. Va bene. Ogni modo, niente, le voglio parlare di Valentino, che io penso che in Italia abbiamo il più grande pilota assoluto che ci sia mai esistito. Praticamente è nato Leonardo da Vinci e non esiste più. E non soltanto di moto, perché se lei si ricorda, quando era con Biagi, anche un campione di correttezza, perché Biagi ne ha fatto più di una contro sì, Valentino. Ma, beh, anche Valentino, ne ha, anche Valentino ne ha fatte più di Bertoldo, se vogliamo, cioè non è certamente uno morbido, è sempre stato uno durissimo, ma Valentino Rossi è un'icona e rimane un'icona anche dopo la storia di ieri, è un'icona dello sport mondiale, non solo italiano. Roberto Bergamo. Sì, ciao Carlo, grazie per aver richiamato. Volevo soltanto fare una riflessione: se le parti fossero state invertite, oggi di che cosa discuteremmo? Se Marquez avesse fatto una scorrettezza come quella che ha fatto Valentino? A parti invertite, quindi con Marquez in lotta per il mondiale? Avremmo detto che Valentino aveva tutto il diritto di fare la sua gara. Possiamo, e Marquez ha fatto possiamo, una porcata. Sì, possiamo dire, fare tutti i distinguo che vogliamo, ma non credo che Valentino avrebbe corso per far perdere il mondiale a Marquez. Semplicemente questo. Siamo nell'ipotetico, ovviamente. Però io non credo che Valentino avrebbe corso in quel modo. Ciao Pierluigi, ci vedo stasera in TV. Sì, mi eri stato in TV dopo le ieri, ma è chiaro che c'è una componente patriottico-nazionalistica, però io penso che siamo abbastanza lucidi nel dire che Rossi ha sbagliato senza se e senza ma, e non si è comportato da Rossi, perché appunto la grandezza di un pilota di quel livello è anche quello di resistere alle provocazioni. Però la provocazione c'è stata e io non so se Rossi in una situazione di questo tipo avrebbe fatto una simile provocazione. Tutto qui. Poi la penso come te, non l'avrebbe fatta, non avrebbe corso in quel modo, anche perché che gli frega che vinca Marquez o Lorenzo. Pierluigi, ciao, a domani. Ciao a tutti. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchione in redazione. Ci sentiamo domani. Bellissimo spettacolo di sport. Bravi.